Adesso inizia un po' di dibattito, prima di un breve periodo di intervallo. Quindi chi desidera intervenire si faccia avanti. Professor Melchiorre. Allora, il professor Melchiorre. Sì, ringrazio molto i colleghi per le belle cose che abbiamo inteso. In particolare, vorrei dire al professor Ringleben che mi hanno interessato molto i suoi. Ah, non si sente? Più Sì. vicino. Mi è interessato molto soprattutto quello che ha detto nel primo e nel terzo punto della sua relazione. E a me sembra molto importante per comprendere il paradosso di Kierkegaard non tanto sul piano della cosiddetta religione A, cioè sul piano di una religione in qualche modo comune all'uomo e speculativamente declinabile, ma sul piano della religione B, cioè della religione cristiana, di cui in particolare ha parlato la collega prima. E a me pare veramente che la non comprensione o la difficoltà di rendere in qualche modo il senso del paradosso cristiano venga a Kierkegaard proprio da un suo irrigidimento a partire da una logica aristotelica, quale quella che gli era stata trasmessa da Trendelenburg. Insomma, l'immagine di un Dio immobile, di un motore immobile, che come tale dunque non può in nessun modo entrare in rapporto con il divenire della storia. Si può probabilmente osservare che questo non è certamente e in assoluto il motore immobile di Aristotele, che non è l'immobilità nel senso spaziale in cui siamo portati a pensare in modo un po' grossolano. Il motore immobile di Aristotele forse può essere riletto come quell'energeia e quindi quella vita interiore che tuttavia non è rovinata dalla negatività del divenire. Ma appunto, l'Aristotele che conosce Kierkegaard è prevalentemente quello di Trendelenburg e questo gli impedisce di stabilire un rapporto fra l'eterno e il tempo. E in questo senso mi pare che anche quando lei diceva a proposito della dialettica nel terzo punto, sia altrettanto importante perché di nuovo qui gioca Trendelenburg che polemizza con Hegel proprio dicendo che è contraddittorio porre all'inizio dell'essere, all'inizio del pensiero l'essere e il nulla. E in realtà all'inizio Hegel pone il divenire, anche se come dire, speculativamente lo dà come risultato, ma il tertium, come sappiamo sempre nella dialettica di Hegel, è ciò che sta prima. E quindi di nuovo un fraintendimento che porta a rendere assolutamente incomprensibile il rapporto tempo-eternità. E questo appunto per dire che, non per contraddire quanto detto stamane, ma per dire che il tema del paradosso portato sul piano della cristologia probabilmente esigerebbe categorie diverse da quelle di cui faceva uso Kierkegaard. Ringrazio molto il professor Ringleben per avermi aiutato a ripensare queste cose. Noi diciamo invece grazie, professor Melchiorre, del suo intervento. Chi altro desidera? Allora, prima lei, dopo. Sì, venga, venga. Herr Kollege Ringnehm, ich glaube, es wäre interessant zu wissen, was Kierkegaard darauf antworten würde, auf Ihre dritte These, in welcher Weise doch noch eine Frage existiert. Wir haben es in dem anderen Referat gehört, dass die Frage Paradox, christologisches Paradox und Glauben zusammengehört, als Gegenstand des Glaubens. Ist das, was hier als Wesenslogik geschildert worden, wirklich dann auch die Existenzdialektik des Glaubens? Oder ist es nicht nur ein Verstehen, ein Denken des Sich-Denkens? Das Problem, das Kierkegaard doch als ontologisches Problem beschäftigt, ist, wie weit kommt das bei mir als einem Ich, ich glaube dies hinein? Und wie ist das nicht nur eine Betrachtung von etwas, was vor sich geht, sondern an dem ich Anteil gewinne, so dass ich es appliziere? Und diese Frage ist mit Ihren Thesen, finde ich, noch gar nicht beantwortet. Wo ist das Ich? Wo ist die Existenz? Wo ist der Glaube? Ist es nicht nur Wesensdialektik, aber keine Existenzdialektik? Ancora rispetto al tema del paradosso, mi ha fatto pensare quando prima il passo citato diceva che il paradosso è una categoria, perché viene in mente quello che Hegel dice nella fenomenologia sulle categorie, e cioè che le categorie sono un passaggio dall'uno al molteplice e sono un modo attraverso il quale la ragione si rapporta a un infinito. In questo senso ritorna il problema, e cioè se la categoria sia un nostro modo di affrontare il problema della realtà o se invece denoti la realtà stessa. E a questo punto mi sembra interessante quello che il professor Ringleben ha prima esposto per Hegel. Sappiamo che il rapporto con Hegel è ancora, credo, oscuro per quanto riguarda Kierkegaard, come ha illustrato ancora il libro di Tolstrop. Ma quello che mi ha colpito maggiormente i giorni prima nel preparare il convegno era l'influenza che ha avuto tutto un gruppo di giovani hegeliani su Kierkegaard, almeno indirettamente. Per cui il concetto, per esempio, di Dio o di spirito è mediato attraverso il tema della morte e soprattutto attraverso il tema della morte di un giovane hegeliano come era Feuerbach del 1830, quando scrive i pensieri sulla morte e l'immortalità. Leggendo quello che scrive Kierkegaard, per esempio nel 42 o nel 41 nella dissertazione sul concetto di ironia, noi vediamo come Kierkegaard da un lato dice non possono esserci prove per l'immortalità dell'anima, e quindi in un certo senso fa proprio quello che sarà l'impostazione dei giovani hegeliani: non esistono prove per una immortalità personale. Dall'altro canto però, se noi leggiamo il punto di partenza di questi scolari di Hegel, era che lo spirito tendesse a diventare ormai qualcosa di eterno al di là del nostro vivere. Quindi fosse un Dio immobile, distinto dagli esseri personali. Questo forse era un equivoco di Hegel stesso, che non aveva mai chiarito il problema della morte per la persona, per l'individuo. D'altro canto però Kierkegaard fa proprio questo dilemma. È immortale lo spirito universale, ma questo non mi interessa. Sono immortale io? Questo però la ragione non me lo può dire. E quindi a questo punto, secondo me, il problema del paradosso viene affrontato da Kierkegaard in modo, in un certo senso, rivoluzionario, quando affronta soprattutto il tema della morte. perché secondo me lì cerca di a far propria la sfida posta dei giovani hegeliani, e quindi da un lato quello di prendere sul serio la morte, di togliere tutte quelle che sono le rappresentazioni dell'aldilà, e dall'altro canto però non accettare che tutto finisca. E quindi in questo senso si apre lo spazio nella realtà, diciamo uno spazio che vada nell'eterno. Qui il problema effettivamente è questo paradosso, dunque, è solo un nostro modo di concepire il reale, o il paradosso fa parte della vita, in quanto la vita dell'uomo o la vita dell'universo è mortale. Il tema della morte mi sembra che attraversi questo confronto e venga affrontato certamente al di fuori di uno schema tipicamente hegeliano. Grazie. Qualche altro? Allora, va bene, grazie. Se puoi rispondere. Danke, ich freue mich, dass ich nicht das letzte Wort haben muss. Mir geht es vor allen Dingen darum, das über das Geheimnis der Inkarnation nachzudenken, eine Aufgabe für die Theologie bleibt, die nicht durch Verbote vorweg entschieden werden sollte. Es geht bei dieser Frage ja um nichts Geringeres als darum, einen theologischen Begriff, einen theologischen Gedanken vom Leben Gottes zu haben. Leben ist aber ein nicht nur ein dialektisches Phänomen unter anderem, sondern ist das Paradigma für Dialektik überhaupt. Und darum hat ja das Hegelsche Denken sich auch als Lebensphilosophie entfaltet. Der junge Theologe Hegel hat über das Leben nachgedacht und ist dabei auf seine Kategorien gekommen. Und dieser Zug eines Realismus im Blick auf die widersprüchliche und vielfältige Wirklichkeit ist dieser Philosophie immer eigentümlich geblieben. Man muss einfach mal wahrnehmen, dass solche Phänomene wie Angst vor dem Tode oder auch Liebe von Hegel philosophisch thematisiert worden sind und in gewissem Sinne auch philosophisch erst salonfähig gemacht worden sind. Es geht nicht darum, das werden Sie gemerkt haben bei den meinen Ausführungen, den Widerspruch oder Widersprüche auszuschalten, abstrakt auszuschalten, sie zu beseitigen, sondern es geht um einen lebendigen und vernünftigen Umgang mit bestehenden Widersprüchlichkeit. Hegel ist zutiefst aufmerksam geworden auf das Phänomen der Negativität und dass es kein Denken gibt ohne die ihm immanente Negativität. Ich habe darum bei dem Vortrag der Kollegin besonders aufgehorcht, als sie von dem Verhältnis von Negativität und Positivität gesprochen hat. Das ist nicht ein Sonderthema, sondern das berührt das Verständnis von Denken selber. Und weil das so ist, darum ist die erste Kategorie, die in der Logik Hegels vorkommt, eben die Kategorie des Werdens, über die ich hier etwas zu sagen versucht habe. Nun zu der natürlich naheliegenden Frage des Glaubens, Herr Kollege Schröer, darüber muss man in der Tat immer noch weiterreden. Ich möchte jetzt aber doch Folgendes sagen. Man muss einen Unterschied machen, und mir scheint, dass Kierkegaard ihn nicht immer festhält, man muss einen Unterschied machen zwischen dem Glauben, dem jeder von uns glaubt, und dem Reden über den Glauben. Wenn ich über den Glauben rede, kann ich nicht dieselben Bedingungen in Anspruch nehmen, als wenn ich in der Situation des Glaubens bin. Ich könnte auch sagen, es ist der Unterschied zwischen Predigt und Theologie. Und damit bin ich bei der Frage nach dem Existenziellen. Es wundert mich, dass ein Begriff vom Existenziellen offenbar vielen einleuchtend ist, bei dem das Denken gar nicht vorkommt. Was ist das für eine Existenz, die nicht Denken ist? Der Mensch ist durch das Denken wesentlich Mensch, und das heißt durch das vernünftige Sprechen. Also insofern gehört das doch wohl zum Existenziellen. Herr Schröer, Sie hatten ja da nun sehr genau nachgefragt. Ich kann nur darauf hinweisen, dass das Ich, von dem Sie reden, dass das Hauptthema, und zwar das Gipfelthema der hegelischen Logik ist. Sie werden sich wundern, Hegel sagt, das Ich, das existierende Ich, ist der existierende Begriff. Also es geht nicht um eine rationale Vergewaltigung oder der Wirklichkeit oder ein Überspringen, sondern es geht gerade darum zu begreifen, als was wir denn da sind, wenn wir als Ich da sind, wenn wir Ich sind. Und deswegen ist der Versuch, Wesenslogik und Existenz gegeneinander auszuspielen, gar nicht sinnvoll. Die Existenz ist eine Kategorie, die in dieser sogenannten Wesenslogik an maßgeblicher Stelle begriffen wird und vorkommt. Ich habe jetzt leider hier kein Zitat zur Verfügung. Wenn Sie sich mal Hegels Begriff von Existenz ansehen, was er denn unter Existenz versteht, werden Sie feststellen, dass dass Kierkegaard dem sehr nahe ist oder umgekehrt, wie Sie mögen. Also auf jeden Fall, die Berufung auf das Ich kann nicht davon entlasten, dass in einer theoretischen Rechenschaft darüber auch dieses Ich begriffen werden muss, sogar als der Begriff selber. Grazie, professor. La parola alla professoressa. Una cosa soltanto, questo problema della categoria, certo che non è un problema facile, sarebbe molto lungo, certo, vederne la matrice, ma io molto semplicemente, insomma, tanto per fermarmi nell'ambito di quello che ho detto prima, lui dice appunto che è un enigma di sintesi, e questo si riferisce principalmente proprio all'uomo Dio. Lui si riferisce, nel mio ambito, sto parlando solo del paradosso religioso nell'ambito della religiosità, quindi altrimenti il discorso si allarga, ma lì Kierkegaard, quando parla di questo, dice è riferito all'uomo Dio. E questo, non so, nel Vangelo delle sofferenze, nell'esercizio del cristianesimo, eccetera, quando lui dice che Cristo nel Vangelo continuamente ripete a chi lo incontra, a chi lo vede operare miracoli, opere prodigiose, eppure lui continua a dire beato chi non si scandalizza di me, chi non si scandalizza di me. Ecco, questo arresto, possiamo dire, della persona umana di Cristo, che provoca in chi si avvicina, e Kierkegaard dice lo scandalo identico sia per i contemporanei, sia per i discepoli di prima mano che quelli di seconda, terza, quarta mano, non so che saremo noi. Quindi per ognuno, dice, che si trova di fronte alla realtà di Cristo, ossia dell'uomo Dio incarnato nella storia, si trova di fronte a questa sintesi paradossale, incomprensibile per la ragione, ma questo incomprensibile, dice Kierkegaard, non è qualcosa che rifugge dalla possibilità di essere pensata. È proprio questo arresto, lui dice, di questa incomprensibilità, indubbiamente, che non è un non senso, e che produce appunto l'arresto e naturalmente poi il salto della fede, molto, molto breve. Un'altra piccola cosa sull'immortalità dell'anima. Kierkegaard torna qualche volta, sì, torna su questo problema, soprattutto riguardo a Socrate, dove dice, ah certo Socrate non è che rischiò la morte, perché pure aveva, appunto era riuscito, dice Kierkegaard, era certo della dimostrazione dell'immortalità dell'anima, i greci erano riusciti in un certo senso a dimostrare questa immortalità, ma non è per quella che Kierkegaard rischiò la vita, eccetera. E lui, infatti, è giusto questo del problema della morte, anch'io sono convinta che in Kierkegaard, a parte le vicende e le esperienze personali, lui vide nella sua famiglia decimata totalmente, insomma, erano parecchi fratelli, sorelle, tutti morti, giovani, rimase lui il padre e un fratello soltanto, sopravvissero a questa famiglia, lui sentiva, diceva di essere sopravvissuto a una famiglia funerea, insomma sentiva questa croce che sopra di distruzione come una maledizione di Dio sulla sua famiglia, quindi un uomo che viene da esperienze molto tragiche, se non altro la morte ha attraversato la sua esperienza esistenziale, ma lui parla spesso invece proprio di resurrezione dei morti, sia nel diario, sia in un discorso edificante che è pubblicato sopra pensieri, come lì che si dice, alle spalle, là, che feriscono alle spalle, pensieri che feriscono alle spalle. C'è proprio questo pensiero dove lui dice, no, non è l'immortalità dell'anima soltanto che ci può garantire della salvezza, ma dice, appunto, gli parla, dice, vicina, imminente una risurrezione dei morti. E nel diario si fa un'obiezione, dice, ma come posso io dire, questa è una cosa molto soggettiva, no? Pensare come imminente, dice, la risurrezione dei morti. E nel diario, negli ultimi diari, dice, sì, è una questione molto soggettiva, dice, ma come può un cristiano, tanto è duro, tanto è difficile, dice, l'essere cristiano, che se il cristiano non pensasse come imminente il ritorno di Cristo, non sopporterebbe, dice, questa difficoltà. E lui dice ancora, una frase molto bella, porta un esempio, dice, è come un'innamorata che ha l'innamorato lontano, E che fa? Si scrivono, desidera che ritorni, vieni presto, vieni, continua ad attendere come imminente questo arrivo. Il giorno che cominciasse a dire, ma sì, torna quando ti pare, dice, ma torna quando vuoi, è segno che non è più innamorata. Ecco, così lui dice in fondo, questa nostra attesa, questo nostro bisogno, questo nostro desiderio. E nelle opere di misericordia di Kierkegaard, negli atti dell'amore, dice che l'atto d'amore più alto, per noi cristiani è l'atto di ricordare un defunto, dice. Perché mentre gli altri possono, il povero può supplicare, può invocare, ci può chiedere, ci può ringraziare, dice solo uno, assolutamente tace, e questo è il morto. È quello che ha più bisogno di tutto, bisogno di noi, del nostro ricordo e soprattutto di Dio, insomma. Ecco, in questo senso Kierkegaard non si limita minimamente all'immortalità dell'anima, la scavalca totalmente, proprio perché se c'è uno che ha sulla realtà della vita umana, sulla totalità della vita umana, sul valore dell'esistenza umana, insistito come nessuno, quindi anche di fronte a Dio, questa vita venuta da Dio, creata da Dio, al valore, ha un valore infinito, è un valore di restituzione infinita. Ecco, io questo per quello che so io, poi non so. Va bene, grazie infinite. Grazie allora ai relatori, a coloro che sono intervenuti.